la manifestazione è nata praticamente immediatamente dopo l'alluvione, nei giorni successivi all'alluvione, perché già il 18 maggio, mentre i primi volontari partivano da Bologna e da Platte per dare una mano nelle zone alluvionate, quella sera ci fu una prima assemblea di circa 200 persone in cui appunto ci si organizzò per la solidarietà, ma ci si disse anche molto chiaramente che c'era anche un percorso politico da fare, perché questa alluvione non è un caso, ma è figlia insomma di scelte politiche ben precise rispetto alla gestione del territorio. E poi questa manifestazione è nata la settimana successiva nella grande assemblea popolare che c'è stata in piazza del Nettuno il 27 maggio, con più di 500 persone che hanno partecipato, in cui si è deciso di costruire questa marcia popolare il prossimo 17 giugno, quindi a un mese esatto dell'alluvione, con appunto la scelta di voler riportare e portare il fango raccolto, spalato in queste settimane sotto il palazzo della regione Emilia-Romagna. Perché sotto quel palazzo? Perché ci sembra che quel palazzo in qualche modo sia, come dire, in questo momento il palazzo simbolo delle scelte che le istituzioni in questi anni hanno fatto, facendo finta di non sapere che esiste il riscaldamento climatico, esiste una crisi climatica globale, e contemporaneamente facendo finta di non sapere che continuare a cementificare il territorio lo avrebbe reso debole e incapace di superare eventi come questi. Sono anni che le istituzioni scientifiche fanno dei report in cui avvisano tutti noi e quindi anche chi governa sui rischi connessi al riscaldamento globale, sul fatto che andiamo incontro a periodi sempre più lunghi di siccità alternati da pochi giorni di piogge molto intense, esattamente quello che è successo nel nostro territorio in questi ultimi mesi, e sono anni che quelle stesse istituzioni scientifiche dicono che continuare a cementificare il suolo, a consumare suolo, significa poi rendere quel territorio fragile e, come dire, esposto a situazioni pericolose. La catastrofe che abbiamo purtroppo vissuto in maggio in Emilia-Romagna è frutto di queste scelte, che sono scelte che sono state fatte in piena consapevolezza, perché tutti sapevano a che cosa si metteva nel conto, che cosa si stava realizzando. Ora è tempo di un cambio di passo molto forte e determinato, e per questo il corteo, la manifestazione popolare di sabato prossimo che va sotto la regione, dice chiaramente che è giunto il momento di smetterla di parlare di grandi infrastrutture, di parlare di grandi opere, che invece l'unica opera utile, necessaria e urgente è la cura del nostro territorio, a partire dal nostro Appennino, e che se si è imparata la lezione dell'alluvione ci sono delle cose anche simboliche da fare immediatamente. Due le abbiamo elencate nel testo che convoca la manifestazione: sono lo stop immediato del rigassificatore di Ravenna, che è l'opera simbolo della scelta miope di continuare a investire sulle fonti fossili che poi provocano il riscaldamento globale; l'altra è lo stop immediato dell'allargamento del passante di mezzo, che invece è l'opera simbolo della cementificazione del territorio. Da sola cementificherebbe altri 40 ettari di territorio e consentirebbe l'allargamento di tutte le autostrade della regione. Ora è tempo di dare un chiaro segnale di inversione di rotta, un chiaro segnale che, come dire, la lezione si è imparata, che dopo la catastrofe, dopo le nostre città imbrattate di fango, si è finalmente capito che non si può continuare a pensare prima ai profitti e poi ai territori, e quindi fermare opere inutili e investire risorse in una ricostruzione sociale e nella cura del territorio. Quindi voi, insomma, non accettate la spiegazione data da chi sostiene che queste piogge record hanno prodotto un disastro inevitabile, nessun sistema idraulico avrebbe retto? Ma non lo sappiamo noi, ma non lo dicono che non è così anche coloro che hanno le competenze per dirlo e per spiegarlo. Abbiamo fatto proprio domenica una conferenza scientifica su questi temi, e certamente le piogge sono state importanti, ma il territorio è uno dei territori più antropizzati d'Europa, e questo è un dato di fatto, uno dei più cementificati d'Europa. Si continua a cementificare nonostante questa millantata legge regionale che dovrebbe consentire il consumo di suolo zero, approvata nel 2017, eppure secondo gli stessi dati l'ISPRA si è continuato a cementificare anche negli anni successivi, e la regione Emilia-Romagna detiene un record poco invidiabile, ovvero quello di essere la regione che in Italia ha cementificato di più in aree ad alto rischio alluvionale. Tutto ciò ovviamente peggiora, rende catastrofiche delle situazioni meteorologiche che già di per sé possono essere molto difficili e complesse. è tempo appunto di mettere in chiaro questa cosa, e quindi bisogna iniziare a decidere che la cura del territorio, la difesa dei luoghi che viviamo, vengono prima dei grandi investimenti infrastrutturali che poi ci condannano a queste situazioni, che peraltro quasi sempre sono anche legati poi all'industria del fossile e quindi al continuare a perpetuare questo circolo vizioso in cui emettiamo CO2 in atmosfera, si peggiora il riscaldamento globale e quindi peggiorano anche gli eventi estremi a cui i nostri territori sono sottoposti.